24 mattino. Posso chiederle? Sì? Chi l'ha accompagnata qui? Posso? Io sono venuto. Non è complicato, no? No. È venuto qui col genitore 1, col genitore 2, col nonno 3. Ma non sono venuto con nessuno, a parte che le medie io, scusi, ma le ho finite da un pezzo. Beato lei, no? Vabbè, beato, è una cosa. Vabbè, una cosa abbastanza diffusa. Non è da tutti. Finire le medie. Non è da tutti. Valeria Fedeli, il ministro parodiato da Crozza ancora con la sua bonaria cattiveria. Questo va più a fondo, ferisce di più, ma diverte. E noi lo mettiamo qui a 24 mattino, 7:19 minuti, 17 secondi. Sta per iniziare la grande ispezione delle pagine dei giornali italiani. Abbiamo Etruri, abbiamo Renzi, abbiamo Vittorio Emanuele III che torna, abbiamo De Benedetti, famiglia divisa, abbiamo la polemica sul Milan, ma prima di ogni cosa, come sempre, viaggiamo sulle prime pagine. Corriere della Sera, Renzi è vero, consenso in calo, è l'intervista con cui il leader del PD mette i piedi nel piatto. È una seconda puntata, perché ieri il Corriere aveva raccontato con un titolo di prima pagina che per la prima volta il Partito Democratico scendeva sotto il 23%, era il titolo di apertura, così come oggi è questa risposta di Renzi, inusuale, anche coraggiosa, perché di solito i leader non commentano le cose negative. La foto di prima è l'attentato sventato grazie a Trump. Ci sono due signori che parlano, uno è Vladimir Putin, l'altro è Donald Trump. E una storia particolare, così ho presentato Andrea al suo killer e Stella, la fidanzata dell'ex calciatore, per la sua famiglia sarò sempre io il colpevole. E è la storia di un cruccio, di un rammarico e anche di una ferita profonda. Il Foglio, uomo dell'anno, anzi gentiluomo dell'anno, anzi gentiloni, è l'apertura di Maurizio Crippa con il grande pezzone di apertura del Foglio il lunedì. Il suo governo all'inizio non convinceva nessuno, un anno dopo con pochi tweet molto grigio e buoni risultati è diventato il simbolo di un paese ottimista e trasversale, il punto di equilibrio di un'Italia alternativa all'isteria populista. Perché, scrive il Foglio, Paolo Gentiloni è il nostro uomo dell'anno. Poi c'è un editoriale di Cerasa su Tre Storie che dicono perché la politica debba vaccinarsi dall'incompetenza populista. E poi c'è un fondo, ne daremo un assaggio, di Giuliano Ferrara sul tema del biotestamento, un fondo controcorrente, contrario alla legge, contrario all'entusiasmo che unanimista, come dice Ferrara, che questa legge ha suscitato. Renzi, altre bombe su Visco, lettera al Fatto del portavoce di Matteo Renzi, molto attivi ieri evidentemente. Scrive il quotidiano di Marco Travaglio: Banca Etruria, domani la resa dei conti in commissione alla vigilia dell'audizione del governatore. L'ex premier vuole superare le polemiche sulla Boschi, denunciando però le responsabilità della Banca d'Italia. Tramite Agnoletti, il suo portavoce, il segretario del PD ci scrive che nessuno dei ministri ha mai fatto pressioni né difeso interessi privati, ma ammette altri incontri della sottosegretaria. Non spiega però a che titolo la Boschi vedesse banchieri e istituzioni e non smentisce, sostiene il Fatto, di aver deciso il siluramento dell'ex AD del Monte dei Paschi di Siena. La foto centrale. Non c'è solo Bell'uomo, la casta di Palazzo Spada. È la storia del famoso consigliere al centro della vicenda delle molestie e ci sono altri 100 membri del Supremo Tribunale su cui il Fatto mette la lente oggi. Allora, Libero. Un piccolo re non merita tanto clamore. Litighiamo pure sui morti. Il fondo di Farina si dedica alla vicenda ovviamente di Vittorio Emanuele III. È arrivata in Italia la salma del re e scoppia una ridicola polemica su dove metterlo. Gli ebrei vorrebbero rispedirlo in Egitto, i Savoia divisi chiedono il Pantheon, per ora lo sistemano in un santuario, per noi basterebbe una tomba. Ma qua devo dire, con un parere contrario a quello che è spesso qui Giorgio Mulè, ma perché non rispedirlo in Egitto, tutto sommato? Cioè, è vero che la morte è una grande, come dire, un grande lavacro, però ricordiamoci tutti coloro che sono morti perché abbiamo avuto una monarchia che non ci ha saputo guidare nei momenti drammatici della Seconda Guerra Mondiale. E dico questo mentre vi presento il titolo del Tempo, che sostiene un parere totalmente opposto. Avanti Savoia, col punto esclamativo, proprio il grido di guerra sabaudo della Prima Guerra Mondiale. Psicodramma sul ritorno di Vittorio Emanuele III, proteste di ebrei e sinistra, parla Emanuele Filiberto: è giusto che ora i miei bisnonni riposino accanto agli altri re. Ma è proprio questo riconoscimento simbolico che non si vuole dare. L'Epifania, tutti i banchi si porta via, Piazza Navona al via, e la foto centrale, sempre del Tempo, senza bancarelle, in compenso salgono i fondi per le sagre, e guerra alla Raggi. La Stampa: sono i migranti e non l'euro ad agitare l'Italia. Gli elettori invocano una guida forte modello Merkel. Inchiesta della Stampa e del Financial Times: solo il 40% si vede multietnico. La paura che alimenta il populismo e il fondo di Zatterin. Due pagine all'interno, gli OGM nascosti nei piatti di Natale, l'inchiesta: l'Italia vieta la coltivazione di organismi geneticamente modificati, ma non la sua importazione. Cappelletto, pagina 12 e pagina 13. Corriere Economia, lo leggo perché c'è la foto di una donna molto famosa in Italia, Chiara Ferragni, una delle sue rare interviste, l'influencer studiata ad Harvard. Ora faccio industria, questo l'intervista al Corriere Economia. Il Giornale: soldi, case, tariffe, cosa succede nel 2018? In arrivo una stangata sui consumi da 780 euro a famiglia. Ecco come cavarsela fra caro spesa, investimenti e bond. E poi c'è un fondo di Giuseppe Marino, le fake news sul gasdotto, ostaggio dei veti ambientalisti. Si parla ovviamente del TAP, su cui si è riaccesa la discussione in questi giorni. Il supplemento di Repubblica, affari e finanza, stipendi, i regali dello Stato padrone. Uno studio del nuovo think tank di Cottarelli rivela che a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione c'è un netto vantaggio sui privati, e senza alcun motivo, un'incognita per le finanze pubbliche, mentre si riapre la vertenza contrattuale. L'Espresso: scontro di inciviltà, aggressioni, minacce, insulti, rancore, odio. Il paese va verso il voto nel modo peggiore e l'avversario diventa un nemico da annientare. Il settimanale diretto da Marco da Milano punta la sua lente di ingrandimento sul fenomeno, ovviamente, della nuova violenza, e di questo si parla. Il reportage è su, parte dall'aggressione alla redazione del gruppo Espresso Repubblica, e tratta ovviamente delle nuove formazioni neofasciste. Corriere dello Sport: il bunker della Roma, la prova della Juve, già si parla del big match di sabato. E poi c'è tanta Lazio, il titolo sulla Lazio. Verona fatale al Milan, leggerò qualcosa su questa crisi di un bel personaggio italiano, Gattuso, in grande difficoltà ora. Il Messaggero: Boschi, la mia verità sulle banche, intervista della sottosegretaria Etruria, pronta a rispondere in commissione se mi chiamano. È una cosa molto importante, ovviamente, questa intervista. Milan, dignità zero, il titolo della Gazzetta dello Sport. Repubblica: fake news sul web, metà degli italiani è stato ingannato. Allora ci fermiamo ancora e poi entriamo nell'ingrandimento degli articoli interessanti. Curiamolo, leviamogli il metadone. Stressato dalla vita quotidiana? Concediti un momento di benessere. Gli estrattori di succo Urom sono adatti a tutta la famiglia. Facili da usare, dal design elegante e con la speciale Slow Squeezy Technology. Il sistema di spremitura lenta brevettato da Urom, pensato per preservare tutte le caratteristiche nutrizionali di frutta e verdura. Urom, il succo fatto in casa, di alta qualità. Vieni a provare le nuove generazioni di estrattori Urom presso i rivenditori ufficiali, che trovi sul sito uromitalia.it.

E un'altra caustica voce della satira, l'avete riconosciuta tutti, è Luciana Di Tizzetto, la cicletta D'Alema per eliminare il grasso superfluo. Vabbè, non ci sono commenti, è lei, è lei. Allora iniziamo con lo sport, perché qui oggi il calcio non è solo sport, è la storia di una favola amara, la favola del Milan, e allora dedicato ad Alino, che ce l'ha nel nome, e a tutti gli altri che in questa radio, in questo popolo di già svegli, soffrono per il Milan, i due corsivi di oggi. Maurizio Crosetti su Repubblica. Si chiama Gattuso questo filo di voce che si presenta, dopo a raccontare l'irraccontabile, un uomo distrutto, bianca la sciarpa e di più il viso, ma è lui l'ultimo ad avere colpa. E il Milan è nato in frantumi e non si è costruito mai, ha accatastato giocatori e misteri, le scatole cinesi, il portiere bambino, il procuratore che lo sta rovinando, la furia non poco sgomenta del pubblico, il club più tribolato al mondo, il Verona per ultimo, lo spappola dopo che il Benevento ultimo gli aveva preso l'unico punto. E non parliamo neppure degli altri, il Milan è un bimbo che cade dopo il primo passo e piange. E sentite, sentite ancora, una squadra che ha consumato e devitalizzato un bravo allenatore come Montella e ora sta bruciando Gattuso, il quale, scrive sempre Crosetti su Repubblica, non aveva scelta, la risposta alla chiamata era obbligatoria. Adesso il buon Ringhio si affida al talento di Suso e Bonaventura e insiste ancora su Kalinic, mentre forse sarebbe il caso di dare una maglia a Cutrone che almeno ha un futuro. Non cerca scuse Ringhio, può perdere punti ma non dignità. Come ridare senso a una situazione tanto compromessa è un enigma. Questo il punto sul Milan, che non è solo una squadra di calcio, ovviamente è un'eccellenza italiana che deve in qualche modo risollevarsi. Ma vi dicevo che parla la Boschi su Repubblica, su diversi giornali, ma sul Messaggero con un'intervista, è praticamente l'apertura del giornale, La mia verità sulle banche, una foto della ministra, se mi chiamano andrò in commissione, firma il pezzo Barbara Jerkov. Cronista politica del giornale, e la Boschi risponde a tante domande, veramente una paginata. Vegas non cancello spesso gli MS, ne ho molti in memoria, anche con altri esponenti del credito e del giornalismo. Ai ai ai, qualcuno si deve preoccupare? Il PD ha molti problemi con tutti i partiti democratici, come tutti i partiti democratici europei, ma continua a pensare, dice la Boschi alla Jerkov sul Messaggero, che sia l'unica speranza per il futuro del paese. Sarà il partito a decidere se e dove candidarmi. È una regola che vale per tutti nel nostro partito, che a differenza degli altri decide le candidature democraticamente nei propri organi statutari. Il PD per primo, dice sempre la Boschi, ha chiesto che venisse istituita la commissione d'inchiesta già alla fine del 2015. I tempi parlamentari hanno portato a insediare la commissione a ridosso della campagna elettorale. La Commissione sta offrendo però spaccati della storia del sistema bancario italiano degli ultimi 15 anni molto interessanti. Certo, il clima da campagna elettorale rischia di far perdere ai cittadini un'occasione preziosa. Ma lei verrà a rispondere, chiedeva Jerkov. Deciderà il Presidente. Se riaprono le audizioni io sono a disposizione. A me la verità non fa paura, mai. E ancora su Vegas, oltre a quell'accenno, i suoi ricordi, stiamo parlando ovviamente del presidente della Consob, mi sono sembrati stranamente selettivi. Chi ha seguito la sua edizione potrebbe stupirsi davanti a certi non ricordo, anche rispetto a episodi molto recenti. Ma è stupefacente che l'azione del capo della Consob di questi 7 anni faccia notizia per il pranzo che mi ha offerto in un ristorante di Milano e non per tutto il resto. E insomma, tutta da leggere, ma c'è anche un altro piccolo retroscena che forse vi interessa. Dopo la sconfitta al referendum fu Gentiloni a insistere con me perché restassi al suo fianco. E non credo di svelarle un segreto se dico che io per prima volevo andarmene addirittura. e avrei voluto essere giudicata sulla base dei risultati, non dalle chiacchiere e dagli insulti. Su Banca Etruria ho solo detto la verità, a partire dal discorso in Parlamento. La mia famiglia non ha ricevuto vantaggi. Può qualcuno smentirmi su questo? Ecco, ho letta con ampi stralci, ma ovviamente il Messaggero fa uno scoop, perché la voce della Boschi è, come sapete, oggi è un'esclusiva. Allora, però ci sono anche le altre notizie su questo caso, che continua a essere il cuore di tutte le pagine politiche, forse non potrebbe essere altrimenti. C'è un'altra tegola, forse, ed è quello che scrive Fiorenza Sarzanini a pagina 2 del Corriere. Etruria, all'altro incontro di Boschi, vide il vice direttore di Banca Italia. Nel 2014 confronto con Panetta, domani Visco, mercoledì Ghizzoni, le audizioni decisive sull'istituto di Arezzo. E sapete che Ghizzoni, ex AD di Unicredit, è molto importante perché la Boschi ha querelato De Bortoli per quello che ha scritto nel suo libro Poteri Forti, e cioè che lei gli era arrivata la richiesta di comprare Banca Etruria, di prendere Banca Etruria, diciamo così. L'altro appuntamento cruciale, scrive la Sarzanini, è fissato il mercoledì, quando in commissione arriverà l'ex amministratore delegato di Unicredit. La storia è ormai nota, il banchiere dovrà riferire se durante il suo incontro si parlò o no di Etruria. Finora Ghizzoni non ha smentito, ma non ha neanche potuto raccontare la propria versione perché vincolato dal patto di riservatezza con Unicredit. Un accordo che però viene superato dall'obbligo di testimoniare davanti alla commissione, che, come sapete, aggiungo io, magari alcuni non lo ricordano, ha poteri ispettivi e equiparati a quelli dell'autorità giudiziaria. E sempre sul caso Etruria c'è questa lettera di cui parlavo, di Agnoletti al Fatto, non la posso leggere tutta perché sono due pagine, immaginate, e il Fatto la pubblica in apertura con una risposta del cronista che aveva scritto il pezzo che ha generato questa smentita, che è Meletti. E c'è botta e risposta abbastanza godibile. Gentile segretario, ecco cosa non torna nella sua versione. Renzi scrive la sua verità, invece il pezzo di Agnoletti, portavoce del leader del PD, e sgancio altre bombe sul Visco. Sulla traccia, come dire, sulla falsariga di questo dialogo c'è anche il problema di Banca d'Italia, della rivalità con e dello scontro, diciamo il conflitto, con il Partito Democratico. Violante, sulla Stampa, pagina 9, intervistato da Amedeo Lamattina, difende Mariana Boschi e dice: l'attacco contro di lei è intriso di viltà. E sulle banche, secondo me da leggere, perché così usciamo dal tormentone Boschi sì, Boschi no, è un bellissimo approfondimento di Fubini, incarichi ai soliti per 446 anni, pensate, pagina 7, il Corriere della Sera, Fubini. Ecco il potere nelle banche locali, in 13 istituti, sempre gli stessi al vertice e i ruoli che passano di padre in figlio. Infine sul Corriere l'intervista a Renzi, in cui risponde ovviamente lo spunto Maria Teresa Meli, pagina 7, è il sondaggio con il calo del PD nei sondaggi sotto la soglia del 23%. Ho letto il dato dei Pagnoncelli. L'elemento preoccupante non è l'ultima settimana, ma il trend. Da maggio a oggi il PD ha perso quasi 7 punti, dice Renzi. Stiamo pagando il fatto che gli altri sono in campagna elettorale, mentre noi dobbiamo sostenere la responsabilità e il governo e passiamo il tempo a litigare all'interno. Anche Renzi parla della Boschi e, attenzione, dice che sarà ricandidata. La Boschi è oggetto di un'attenzione spasmodica che copre i veri scandali di questi anni. Un vostro commentatore ha scritto sul Corriere: a questo punto non importa se ha detto o meno la verità, a noi del PD sì, importa, la verità interessa più del pregiudizio. A gennaio comunque gli organi del partito decideranno, la mia opinione è che si debba candidare senza alcuna incertezza, i colpevoli li giudicano i giudici, i politici li giudicano gli elettori. Tra l'altro Renzi parla anche dello Ius Soli, dice: se non ci saranno le condizioni per mettere la fiducia, questo provvedimento non passerà, quindi dico io non passerà. e poi altre cose sul sistema bancario e sul programma, sull'opposizione interna, ma francamente meno importanti. E vi dicevo di... vi ricordate di Grasso che ha presentato il simbolo da Fazio? Lo fa anche la Bonino sulla Stampa, è un simbolo bianco, c'è scritto solo Europa. Fazio si è un po' preoccupato mentre lei lo esibiva, sta diventando un po' una moda. Una volta c'era l'ufficio elettorale, adesso c'è il programma di Rai 1. E poi vi dicevo quell'intervista di Elena Agarossi su Corriere a pagina 10, interessante, e spiega la mia posizione, che non è no, ovviamente, come scrive qualcuno, come ha capito qualcuno alla sepoltura di Vittorio Emanuele III, ma è no al fatto che lui voglia stare nel Pantheon, lui, la sua famiglia, chieda che stia nel Pantheon insieme agli altri re. Non merita una sepoltura d'onore perché la storia del Novecento è complessa. E allora ecco la motivazione che sottoscrivo di Elena Agarossi, storica, autrice di un bel libro sull'armistizio del 43, Una nazione allo sbando. Solo quando fu chiaro che la guerra era perduta, prosegue la studiosa, sto leggendo Antonio Carioti sul Corriere della Sera, il re si dissociò tardivamente da Mussolini, ma il suo comportamento irresponsabile proseguì e portò al disastro dell'8 settembre. A 70 anni dalla morte di Vittorio Emanuele III non credo si debbano sollevare obiezioni sul ritorno della salma in Italia, ma trovo inaccettabile l'ipotesi che si rendano pubblici onori attraverso la sepoltura in un luogo significativo per la nazione. E sul Giornale a pagina 7 la polemica fra De Benedetti, padre e figlio. Lui, l'ingegnere, aveva punzecchiato il suo giornale, criticato la doppia direzione, la gestione del quotidiano senza spigoli, e il figlio gli ha risposto con una lettera chiesta dal CDR, su cui il giornale inzuppa un bel retroscena. E ci sono ancora tante cose da dire, ma ovviamente lo guardiamo, lo vediamo nello spazio dei soldi. E una battuta bella di Sconcerti sul Milan: i soldi senza faccia non hanno destino. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Mattino. Io non creo niente, io posseggo e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Gordon, come ci serve il tuo aiuto? Ogni giorno ci ispiri, ogni giorno ci porti nel luogo dove tutto diventa chiaro, nel tempio del denaro. E allora l'economia, ovviamente, i numeri che fanno girare il mondo, la prima del Sole 24 Ore, piena di notizie oggi, e una subito credo che possa addirittura aprire il dialogo fra di noi nel luogo dei cani e dei gatti, perché segnala che pian piano, con i meccanismi che erano stati previsti, il Sole pagina 2, Davide Colombo e Matteo Prioschi, si arriva alle pensioni nell'era della parità. Età uguale per uomini e donne. Dal 1 gennaio la novità previdenziale, gli assegni aumenteranno dell'1,1%, ma per la prima volta non ci sarà differenza di anzianità fra uomo e donna. È un grande passo verso la parità, come sostiene qualcuno, o è una grande fregatura per le donne, come sostiene qualcun altro? Sapete che io non le mando a dire e sostengo, e non so se Oscar sarà d'accordo, penso di no, che alle donne debba essere riconosciuto un differenziale, soprattutto per quello che fanno con la gravidanza, che dal punto di vista della contribuzione, ovviamente, e della carriera è un ritardo rispetto a chi invece non deve assentarsi per così tanto tempo. Allora, questo è il pezzo che ovviamente dovete leggere, ma voglio anche andare a una delle guide preziose del Sole oggi, che è quella, l'ho tagliata e l'ho anche squinternata, perché sono l'esperto risponde sulle auto aziendali. Molti di voi magari inizia il nuovo anno, scade l'ammortamento, si chiedono: acquisto, leasing o noleggio? E È una domanda complessa perché bisogna rispondere valutando diversi parametri. Allora leggetevi questo speciale, lo firma Stefano Sirocchi e mette a paragone tutte le diverse agevolazioni di cui si può godere con le tre diverse tipologie di acquisto della macchina. Allora, poveri con un lavoro, guardate che questo è un altro tema incredibile, La Stampa, pagina 20, un tempo dicevamo disoccupato ed era quello il sinonimo della precarietà, invece adesso c'è chi lavora, come dice Landini, ma non arriva lo stesso a fine mese, e La Stampa ci fa un focus molto interessante raccontando chi sono, come e perché arrivano a questa condizione, poveri ma con lavoro in Italia, stipendi troppo bassi. Il pezzo occupa l'apertura, è un passante, e li chiamano working poor, letteralmente poveri che lavorano. Ormai lo stiamo constatando nel nostro paese, all'ordine del giorno, scrive La Stampa, la questione della povertà, come i dati più recenti dimostrano, ma esiste una più specifica questione salariale che è origine del paradosso: si può essere poveri anche quando si ha un lavoro più o meno sicuro, e ciò è più grave nelle regioni del sud rispetto alle regioni del nord. Appena ricordato Eurostat, in Europa l'Italia è il paese che ha più poveri in termini assoluti, e sono 10 milioni e mezzo le persone che lungo la penisola hanno difficoltà a tirare avanti, a pagare l'affitto regolarmente, ad affrontare spese impreviste. Allora qui c'è una classifica, ogni volta che leggo una classifica in questa rassegna stampa succede un ia e dio, però la voglio leggere. La differenza di retribuzione: la regione più ricca è ovviamente la Lombardia, 31.711, il Lazio 29.000 euro, la Calabria, la regione più povera di questo schema, con 24.537, quindi immaginate, ci sono quasi 7.000 euro di differenza fra i più ricchi e i più poveri in Italia. Media annua della retribuzione al nord 30.000 euro, media annua della retribuzione al sud 26.000 euro. Mitragliamo un po'. Si è discusso sui social, che ormai dettano l'agenda ai giornali, e il portavoce della Fedeli ha scritto, pensate, al giornale di Sallusti per spiegare la genesi dello strafalcione, cioè un errore nella consecutio temporum che la ministra avrebbe fatto in un'intervista al Corriere della Sera. E che cosa dice il portavoce Simone Collini con molto coraggio? Sono stato io a fare errore, io tagliando quell'intervista ho sbagliato. Bene, coraggioso, si prende una bella croce, però ogni volta che un collaboratore, una segretaria, un braccio destro, un portavoce si prende una responsabilità, è legittimo sospettare. Vi dicevo, Chiara Ferragni al Corriere Economia, un'intervista interessante in cui fra l'altro aggiorna i numeri del suo fatturato e la potenza di fuoco dei suoi social. Ormai sono i social che descrivono, che contano più delle armate. Quanti ne ha, lei chiede? Più o meno 11 milioni. Però parla di conti, di società, dice che guadagna un sacco di soldi, vi do la sintesi, ma che adesso ha anche aggiustato i conti. Babbo Natale ti odio, una bambina, Tempo, pagina 12, riferita dalla madre, scrive una lettera a Babbo Natale dicendo: mi hanno costretto a rivolgermi a te, ma io in realtà ti odio. Insomma, ragazzi, bambini che crescono con carattere. Allora, questa è molto interessante, soprattutto per i padri, i figli che in questo momento stanno andando a scuola. Pensate, era stata promossa la bambina di una famiglia, il giornale, pagina 16, ma i suoi genitori hanno fatto opposizione. Era una bambina che aveva qualche piccola difficoltà di disturbi dell'apprendimento, come capita tantissimo, è una cosa normale nella società di oggi. I professori hanno ritenuto importante promuoverla per la buona volontà, il segnale dato e i pesi e i contrappesi che si applicano a questa situazione, e la famiglia si è opposta, pensate, facendo addirittura un ricorso al TAR. La Stampa, pagina 15. Questa è la foto di un'epoca. Miss Iraq e Miss Israele si erano fatte un selfie scrivendo pace e amore. Ebbene, lei, Miss Iraq, è stata coperta di insulti, di improperi, sia per il bikini sia per il messaggio. La sua famiglia minacciata. È tremendo, ma... e questo è il segno dei tempi. Libero, pagina 15. Il dipendente oggi si sceglie con il videogioco, lo racconta Salvatore Mica della società Runaway, non Runaway, proprio Runaway. E va bene, è la modernità che avanza. Ci fermiamo ancora per il giornale radio, torniamo ai cani gatti.